Ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Settima puntata. Uccelli selvatici. In che modo la notizia della lite notturna tra due giovani, compresa una qualche aggressione a Edwin Drood da parte di Neville Landless, fosse penetrata prima di colazione nell'istituto della signorina Twinkleton, è impossibile dire. Forse l'avevano portata gli uccelli dell'aria, o era entrata soffiando con l'aria stessa quando avevano aperto le finestre. Forse l'aveva portata il fornaio impastata nel pane, o l'aveva lasciata il lattaio come una sostanza del suo latte adulterato, o l'avevano ricevuta le domestiche sbattendo gli zerbini sui montanti del cancello, depositata sugli zerbini dall'atmosfera della città in cambio della polvere. Sta di fatto che la notizia ormai impregnava ogni pietra del vecchio edificio prima che la signorina Twinkleton scendesse, e che lei stessa la sentì dalla signora Teacher mentre ancora si stava vestendo. Da parte sua, Rosa rifletté a lungo su quel disgraziato litigio e ci pensò con la sgradevole sensazione di esservi coinvolta come motivo o conseguenza o chissà che, proprio a causa della falsa posizione in cui si trovava riguardo al suo fidanzamento. Mai libera da quel senso di disagio quando era col suo promesso sposo, non era probabile che lo fosse quando erano separati. Tanto più che quel giorno era lasciata a se stessa, priva del sollievo di parlare liberamente con la sua nuova amica, poiché la lite aveva riguardato il fratello di Elena e Elena palesemente evitava di parlarne, dato che anche per lei l'argomento era delicato e complesso. E proprio allora, in quel momento più critico che mai, fu annunciata a Rosa la visita del suo tutore. Il signor Grugius era stato ben scelto per quell'incarico, in quanto uomo di integrità incorruttibile, ma di certo per nessun'altra qualità appropriata visibile in superficie. Era un uomo arido e sabbioso. Se fosse stato macinato, era probabile che si sbriciolasse all'istante in tabacco da fiuto ultrasecco. Aveva una capigliatura piatta e sparuta, per colore e consistenza simile a una mantellina di pelo gialla e spelacchiata. Era talmente dissimile da una chioma da dover essere per forza una parrucca. I solchi profondi, di poche curve marcate, rendevano il gioco espressivo della sua faccia simile a un lavoro, e sulla fronte aveva delle tacche, come se madre natura si fosse trovata sul punto di rifinirle in una forma sensata, ma avesse buttato via il cesello spazientita dicendo: «Non vedo proprio perché devo affannarmi a finirlo quest'uomo, che se ne vada così com'è». Con troppa estensione di collo all'estremità superiore e troppa abbondanza di malleoli e calcagni a quella inferiore, con un modo di fare esitante e goffo, con un passo dinoccolato e, come si suol dire, una vista corta che forse gli evitava di osservare quanta parte delle sue calze di cotone bianco in contrasto con l'abito nero fosse esposta al pubblico, aveva tuttavia una sua strana capacità di fare un'impressione gradevole. «Le mie visite», disse Grugius, «sono come quelle degli angeli». «Non che io mi paragoni a un angelo». «No, signore», disse Rosa. «Mi riferisco solo alle mie visite, che sono poche e lontane l'una dall'altra. Come sappiamo molto bene, gli angeli sono di sopra». La signorina Twinkleton si guardò intorno con una specie di fissità nello sguardo. «Mi riferisco, mia cara», disse Grugius, posando la sua mano su quella di Rosa mentre lo trapassava l'agghiacciante possibilità, se non l'avesse posata, di essere frainteso, come se si fosse preso la tremenda libertà di chiamare mia cara la signorina Twinkleton. «Mi riferisco alle tue compagne». La signorina Twinkleton riprese a scrivere. Grugius, con la sensazione di non aver condotto il suo esordio con la nitidezza sperata, si lisciò la testa dalla nuca alla fronte, estrasse un taccuino dalla tasca della giacca e un mozzicone di matita nera dal taschino del panciotto. «Ho messo», disse girando le pagine, «ho messo giù dei punti, un promemoria o qualcosa del genere, come faccio di solito visto che non ho la minima capacità di conversare, a cui, col tuo permesso, mia cara, farò riferimento. Sana e felice. Sei sana e felice, mia cara?» «Dal tuo aspetto si direbbe di sì». «Sì, certo, signore», rispose Rosa. Grugius si lisciò di nuovo la testa e poi fece un altro riferimento al taccuino, cancellando il punto «sana e felice», come già sistemato. «Sterline, scellini e pence. È la mia nota successiva. Un argomento arido per una giovane signora, e tuttavia importante. La vita è sterline, scellini e pence. La morte...» L'improvviso ricordo della morte dei genitori di Rosa lo bloccò ed egli disse con più tenerezza, evidentemente inserendo la negazione come effetto di un ripensamento: «La morte non è sterline, scellini e pence». La sua voce era dura e secca come lui, e la fantasia avrebbe potuto istantaneamente macinare anche quella in una sbriciolatura di tabacco da fiuto. Eppure, tramite i suoi limitatissimi strumenti espressivi, Grugius esprimeva gentilezza, e se solo la natura si fosse presa la briga di completarlo, in quel momento la gentilezza gli si sarebbe potuta riconoscere in viso. Ma se le tacche sulla fronte si rifiutavano di spianarsi e la faccia era dedita al lavoro e non al gioco, cosa poteva farci lui, povero uomo? «Sterline, scellini e pence. Trovi ancora adeguata alle tue necessità la somma che ti è assegnata, mia cara?» Rosa non aveva bisogno di niente e quindi la somma era più che abbondante. «E non hai debiti?» Rise all'idea di avere debiti. Inesperta com'era, le sembrava una comica stramberia. Grugius aguzzò la vista corta per accertarsi che fosse davvero quella la sua convinzione. «Ah!» disse a mo' di commento, con un'occhiata furtiva alla signorina Twinkleton e cancellando «sterline, scellini e pence». «L'avevo detto che mi trovavo in mezzo agli angeli, proprio così». Rosa intuì qual era il punto successivo dell'elenco e molto prima che lui lo trovasse cominciò ad arrossire per l'imbarazzo e a increspare una piega dell'abito con la mano. «Matrimonio, Grugius estese la lisciatura a occhi e naso, a mento perfino, prima di accostare la sedia e parlare un po' più confidenzialmente. «Vengo ora, mia cara, al punto che è la causa prima del disturbo che ti arreco con la mia visita odierna. Altrimenti, da quell'uomo puntuto che sono, non avrei fatto l'intruso. In questo luogo mi sento come un orso coi crampi che balla la quadriglia». La similitudine rendeva così bene la sua goffaggine che Rosa scoppiò a ridere di cuore. «Sei d'accordo anche tu?» disse Grugius con la massima calma. «Tornando al promemoria, Edwin è venuto a trovarti come convenuto. Me ne hai parlato nelle tue lettere trimestrali. E tu gli piaci e lui ti piace». «Mi piace molto», disse Rosa. Sedeva quieta e silenziosa. Forse la sua mente non era ancora arrivata alla cerimonia e indugiava lungo la via. «Promemoria, testamento. Dunque, mia cara», disse Grugius riferendosi ai suoi appunti, liquidando matrimonio con la matita e prendendo una carta dalla tasca. «Sebbene io ti abbia informata prima d'ora sul contenuto del testamento di tuo padre, ritengo opportuno lasciarne ora una copia certificata nelle tue mani. E sebbene anche Edwin sia al corrente del contenuto, ritengo opportuno lasciarne una copia certificata pure al signor Jasper. Non a Eddie?» chiese Rosa, sollevando rapidamente lo sguardo. «Non può riceverla lui direttamente?» «Beh, sì, mia cara, se lo desideri particolarmente. Ho parlato di Jasper in quanto è il suo tutore». «Lo desidero particolarmente, se non vi dispiace», disse Rosa in fretta, con grande sincerità. Non mi va che il signor Jasper si intrometta tra noi in nessun modo. È naturale, immagino, disse Grugius. Potete dirmi, per favore, disse Rosa con la fronte graziosamente corrugata, prendendo il documento senza aprirlo, se è giusto quello che sto per dire. Capisco molto meglio voi che gli scritti legali. Il mio povero papà e quello di Eddie hanno fatto questo accordo come dei cari vecchi amici, perché anche noi due un giorno potessimo essere dei cari vecchi amici. Proprio così. Per il bene di tutti e due e la duratura felicità di tutti e due. Proprio così. Perché fossimo l'uno per l'altro anche di più di quello che erano stati loro l'uno per l'altro. Proprio così. E non c'è stato imposto a Eddie e a me con qualche clausola nel caso... Non ti agitare, mia cara. Nel caso che ti riempie gli occhi affettuosi di lacrime anche solo a pensarci. Nel caso che non vi foste sposati. No, nessuna clausola. Per nessuno dei due. Ti avrei fatto da tutore fino alla tua maggiore età. Non ti sarebbe capitato di peggio. Come guaio può bastare. E Eddie? Una volta maggiorenne, sarebbe entrato nella società con la quota del padre e avrebbe percepito gli arretrati dei dividendi, se dovuti, esattamente come adesso. Rosa, con la fronte corrugata e la faccia perplessa, mordicchiava l'angolo della sua copia certificata, mentre se ne stava seduta con la testa inclinata di lato, guardando sovrappensiero il pavimento e lisciandolo col piede. In breve, disse Grugius, questo fidanzamento è un desiderio, un sentimento, un progetto amichevole, espresso con affetto da entrambe le parti. Certo è che era intensamente sentito e che vi era una forte speranza di un suo prospero futuro. Quando eravate bambini, vi siete abituati all'idea facendola prosperare, ma le circostanze cambiano le cose. E oggi sono venuto qui, in parte, soprattutto a dire il vero, per assolvere al mio dovere di dirti, mia cara, che due persone si possono unire in matrimonio, a meno che non sia per interesse da cui falsità e sofferenza, solo per la loro libera volontà, attaccamento reciproco, certezza di essere adatti l'uno all'altro e intenzionati a rendersi vicendevolmente felici. Possiamo mai supporre, per esempio, che se uno dei vostri padri fosse vivo e avesse dei dubbi sulla cosa, non cambierebbe idea, essendo cambiate le circostanze in seguito al cambiamento dei vostri cuori? Insostenibile, assurdo, inconcludente e insensato. Grugius disse tutto questo come se lo stesse leggendo ad alta voce, o meglio ancora, come se stesse ripetendo una lezione. Tanto inespressivi e incapaci di qualunque impulso spontaneo erano faccia e modi. E ora, mia cara, aggiunse cancellando testamento con la matita, ho assolto a quello che, nel nostro caso, è indubbiamente solo un dovere formale, ma è comunque un dovere in un caso del genere. Promemoria, desideri. Mia cara, hai qualche desiderio che io possa esaudire? Rosa scosse il capo con un'aria quasi mesta ed esitante, come in cerca di aiuto. «Mi vuoi dare istruzioni in riferimento a qualche questione che ti riguarda?» «Vorrei prima parlarne con Eddie, se non vi dispiace», disse Rosa stropicciando la piega del vestito. «Certo, certo», rispose Grugius. «Voi due dovreste essere unanimi, sempre. Verrà a trovarti presto? È partito solo stamattina». Torna a Natale. Perfetto. Quando viene a Natale potrai sistemare con lui tutti i dettagli. Poi ti metterai in contatto con me e io, con la raffinata signora accanto alla finestra d'angolo, estinguerò, in senso puramente economico, i miei obblighi. Altra cancellatura. Promemoria, commiato, sì. E ora, mia cara, prendo commiato. Sentendosi in dovere di incontrare Jasper prima di lasciare Cloisterham, Grugius si recò alla casa di pietra e salì la scala esterna. Trovando la porta chiusa e la parola cattedrale scritta su un foglietto, gli venne in mente che era l'ora della funzione. Così ridiscese la scala, attraversò il sagrato e si fermò davanti alla imponente porta occidentale, i cui battenti erano aperti sul pomeriggio mite e luminoso, anche se breve, per far entrare un po' d'aria. «Buon Dio», disse Grugius, sbirciando all'interno. «È come guardare giù per la gola del tempo». Tempo sospirò, esalando un soffio muffito da tombe, arcate e volte, e ombre fosche si infittirono negli angoli, e umidi vapori trasudarono da verdi chiazze di pietra, e gioielli gettati in terra dal sole al tramonto splendente sulle vetrate cominciarono a spegnersi. Dietro il cancello del presbiterio, su per i gradini sovrastati cupamente dall'organo, sempre più scuro, bianche vesti si distinguevano vagamente e di tanto in tanto si udiva a malapena un'unica fievole voce salire e scendere in un monotono mormorio spezzato. Fuori, all'aria aperta, il sole al tramonto impolporava il fiume, i pascoli verdi, i bruni campi arati, le fertili valli e colline, e lontano scintillavano le finestrelle di mulini a vento e fattorie, chiazze splendenti di oro battuto. Nella cattedrale tutto divenne grigio e tetro, e il monotono mormorio spezzato proseguì come una voce morente, finché esplose il suono dell'organo e del coro, annegandola in un mare di musica. Poi il mare rifluì e la voce morente fece un ultimo debole sforzo, e poi il mare salì di nuovo e la colpì a morte e sferzò il soffitto e si gonfiò tra le arcate, trafisse l'alto della torre, e poi il mare si ritrasse e tutto fu silenzio. Grugius intanto era avanzato fino ai gradini del presbiterio, dove incontrò le acque viventi che uscivano. «È successo qualcosa?» In questo modo lo accostò Jasper concisamente. «Vi hanno mandato a chiamare?» «No, niente affatto. Sono venuto per conto mio. Ho incontrato la mia graziosa pupilla e ora sono di nuovo diretto a casa. L'avete trovata bene?» «Un fiore, davvero un fiore. Sono venuto solo a dirle in tutta serietà cos'è un fidanzamento voluto da genitori defunti. E cos'è, secondo il vostro parere?» Grugius notò il biancore delle labbra che formulavano la domanda e lo imputò al gelo della cattedrale. «Sono solo venuto a dirle che non andrebbe considerato vincolante di fronte a ragioni che ne motivassero lo scioglimento, come la mancanza di affetto o di volontà di arrivare al matrimonio da parte di uno degli interessati. Posso chiederle se avevate una qualche ragione speciale per dirle questo?» Grugius rispose abbastanza bruscamente. «La ragione speciale di fare il mio dovere, signore, semplicemente questo». Poi aggiunse: «Via, signor Jasper, conosco l'affetto che portate a vostro nipote. Vi assicuro che in questo non c'è la minima implicazione di un dubbio o una mancanza di rispetto nei suoi confronti». «Scommetto», disse Jasper sorridendo, le sue labbra erano ancora così bianche che se ne rese conto e parlando le mordeva e inumidiva. «Scommetto che non ha accennato al minimo desiderio di liberarsi di Ned». «E vincete la scommessa», rispose Grugius. «Date le circostanze, suppongo che un qualche margine lo dobbiamo lasciare ai delicati pudori di una giovane orfana, ma questo non è il mio campo. Voi che ne pensate?» «Avete ragione, indubbiamente». «Son lieto di sentirvelo dire», continuò Grugius, che per tutto questo tempo si era cautamente avvicinato al punto, ricordando ciò che gli aveva detto Rosa a proposito di Jasper. «Perché, vedete, è come se, per una sua delicatezza istintiva, preferisse essere lei, insieme al signor Drood, a prendere tutte le decisioni preliminari. Noi due non ci vuole, sapete?» Jasper si toccò il petto e disse piano: «Volete dire me?» Grugius si toccò il petto e disse: «Voglio dire noi. Pertanto lasciamo che si consultino e discutano tra loro quando il signor Drood torna qui a Natale, e dopo interverremo noi a dare i tocchi finali alla cosa». «Sicché vi siete accordato con lei per tornare a Natale?» osservò Jasper. Signor Grugius, come avete giustamente detto poco fa, tra mio nipote e me c'è un attaccamento fortissimo e io sono più suscettibile riguardo al mio caro fortunato, felice ragazzo, che riguardo a me stesso. Ma è più che giusto, come dite voi, che sia tenuta in considerazione la signorina e che io segua le vostre istruzioni. D'accordo. Se capisco bene, a Natale completeranno i preparativi per maggio e metteranno il matrimonio sul binario d'arrivo. E a noi non resterà altro da fare che metterci sul binario anche noi e predisporre ogni cosa per terminare formalmente la nostra tutela, il giorno del compleanno di Edwin. Esatto, assentì Grugius mentre si stringevano la mano nel separarsi. Dio li benedica entrambi. Dio li aiuti entrambi, esclamò Jasper. Io ho detto li benedica, osservò il primo girandosi. Io ho detto li aiuti, rispose l'altro. C'è differenza. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.